qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Andiamo al gruppo. Brecco Italia. Attento, Brecco Italia. Andiamo al gruppo. Attention my friend, do you copy Italy? Chino, Valdemar. Brecco Italia. Ora attento, Brecco Italia. Robert. Avanti, chi chiama Robert? Canale 26, c'è un Tedesco a 9.30. Aspetta, provo a vedere. Ci sei? Ehi, ah no, ti spiego, questi là fuori li sento bene, probabilmente c'hanno la deviazione FM molto, molto stretta, no, quella giusta che dovrebbe essere. Provare una M, vai. 1, 2, 3, provare, vedete, questo qua è tutto regolato, siamo sforzato un po' di roba, non so se sia adatto per questo apparecchio. Sì, la radio è chiara, diciamo, sembra che abbia abbastanza bassi, per questo paracchino. Sembra che ci siano molti bassi ed è un po' effetto stanza, robè, un po' rimbombante. Troppo amplificata, aspetta, abbasso un pochettino, guarda adesso l'ho abbassata un po'. Per città è ideale così, è ottimale. No, t'avevo chiamato perché scarrellando ho visto questo segnalone, ma anche qua raramente arrivano così segnali. Da te sarà stato anche più alto, è che non capisco una parola in tedesco. Neanche io, ma qualche cosa magari in inglese riescono a capirti. Ho fatto una chiamata, c'era questo qua, non so che lingua era, non era tedesco, poco fa, sul canale, non mi ricordo che canale era, arrivava 9.10 in AM, però non capivo la lingua, non so se era greco o qualcosa del genere, o qualche lingua, come si chiama, dei paesi dell'est. Sì, infatti alle volte è difficile capire le lingue se non c'è padronanza. Poi sai cos'è, se non fanno DX di solito si chiama in inglese, che è internazionale. Vabbè, tutto lì, vabbè. Radio buona, ottima. Poi se gli fai le regolazioni la affinerai ancora meglio. Vabbè Robè, io sono col piatto qua, l'ho preso col piatto e quindi non posso trattenermi. Avevo sentito anche una chiamata di Giulio poc'anzi, però avevo le mani tutte fatte d'olio e non potevo rispondere. E adesso faccio una chiamata generale, attenzione al canale 10, chi vuole entrare, il segnale è sempre il mio, è Marco. Beh, qua vedo 9.25, anche pieno, vabbè, per quello che posso vedere, la vista non è buona mia. Devo pigliare la lente di ingrandimento per vedere lo Schmidt. Aspetta, forse adesso sono come è scosso normalmente. 1, 2, 3, prova. Sì, adesso sono qua, no, perché ho fatto delle prove stasera, stavo provando un altro microfono ed ero in banda, come si chiama, mi sono abbassato di potenza perché ero dentro casa, mi stavo ascoltando. Guarda adesso se il segnale è uguale al solito. Credo di sì, Robè, 9.25, qua la differenza poi è decimillimetrica, cioè dovrei attenuarti e non so attenuato quanto tu arrivi. Comunque forte come sempre. Di più non posso dire, Robè. Dico 9.25 è il mio segnale, no? Io pensavo arrivassi più forte dalle tue parti. No, ma conta una cosa, che qui il 9.30 è al fondo scala, cioè il 9.30 qua è come se fosse 9.60, mi ti spiego. E se metto, che so, se metto il 7009 arrivi 9 più 40, il massimo, 9 più 40, forse anche 9 più 45, è a LED quello. L'importante è che stia uscendo pulito, quello lì che non stia andando in picchi negativi e che stia andando tutto bene. No, sono positivi i picchi negativi. Sì, attenuato sei tipo 7.5-8 attenuato. È che io non è che mi segno tutti i segnali, capito? Da attenuati. Però sei forte, posso dire che il tuo segnale è solito, non c'hai nulla che non va. Ok, tu sei 9 più 30 con i picchi positivi arrivi a qualcosina di più. Sei pulito comunque, così è. Sì, solita condizione, Superstar 3009, microfono originalissimo. Peraltro abbiamo fatto una prova anche con altri apparecchi e questo microfono in particolare, originale, che è marcato Star, suona meglio degli altri, suona meglio del DMC famoso 500 e qualcosa, suona meglio anche di un altro microfono ancora, dai. Oh, ti ascolto benissimo, la radio tua ho sempre detto, è ottima radio, pulita, senza disturbi, ma stanno usando un po' di gente nel 9009, cosa cambia dal 3009 o dal 6009 rispetto al 9009, cosa c'è di diverso? Il 9009, allora, prima di tutto il 3009, forse ho sentito un break. Allora, il 3009 è tutto componenti classici, no? Poi il 6009, 7009, 9009 sono tutti SMD. Il 9009 è il più piccolo di tutta la serie, ma è anche il più potente. C'ha tipo 30 watt AM, 60 SSB, in FM non so se siano 40, 50, una cosa del genere, penso 40. Vediamo se c'è il break che vuole entrare, avanti il break. No, forse era propagazione. Io ho tutti i segnali a 9 adesso, la propagazione mi fa, se c'è qualcuno più basso di 9 non lo sento. E a me mi senti che sono piccolino. Natalino, e beh Natalino, ti passo il mic che poi ti saluterà Marco. Ciao Robert. Ciao Marco, buonasera. Io ho finito adesso di cenare. Ma te l'immagini a che ora mi tocca cenare? Ciao Natalino, ben sentito, ben entrato. Naturalmente sento più la TV di quello che dici tu, e lì bisogna ridurre drasticamente il guadagno del microfono da tavolo. K. Comunque radio chiara, pulitissima, un bijou. Robè, capito, il più piccolo ma il più potente è il 9009. E poi la scheda è molto simile, mi 6009. Se tu guardi poi questi apparecchi dentro, la scheda non riempie tutto l'apparecchio, ma c'è una parte vuota, capito? Quindi la scheda è più piccola dello chassis esterno. Riprendi, Robè. Una cosa, ma stavi riferendoti a me che la radio era diversa, o Natalino stavo dicendo, mi ha fatto, non ho capito, scusa. No, Natalino, perché lì si sente troppo la TV, c'è poco da fare, lui deve ridurre il guadagno del mic. Ah ok, no, mi stavo preoccupando, infatti, dove stanno che sto uscendo? Natalino, come sto uscendo con questo microfono? Natalino è fuggito. C'è qualche operazione delicata, e l'ora è quella. Sì, buono qua, va bene. Io poi ho poco orecchio anche per i microfoni, però suona bene, niente da dire. Sembra un po' più carico di bassi del tuo solito microfono, in teoria. Ti ricordi l'altra volta mi hai fatto una prova? Uno aveva più bassi, l'altro era un po' più neutro, meno bassi comunque, dai. Io non riesco ad ascoltarmi come voglio io, perché ci dà sempre un po' di rumore di fondo, si sente quando faccio le lavorazioni, ho provato con un'altra radio staccata senza antenna, con filtri e tutto quanto, però cacchio, non riesco ad ascoltarmi come vorrei io. Lo so, ma poi se conti che comunque i controlli che ti danno è anche in base alla radio, questa è una ricezione, te l'ho detto, più medio-alta, poi cose dette, ripetute, no? Altri apparecchi hanno una tonalità più calda, uno, il 9009 mi pare ha una ricezione leggermente più plasticosa, perché, ti spiego, la membrana, che io ricordi, la membrana dell'altoparlante, anziché essere fatta di quel cartone o cosa è fatta in materiale plastico, questo sempre che non stia sbagliando io, e la timbrica di ricezione è più plasticosa, capito, proprio come suona l'altoparlante. Vabbè, diciamo è sempre bene mettere un altoparlante, io tutti i rilievi li faccio con l'altoparlante esterno, non li utilizzo di coso, mi attacco la lampada 48, l'altoparecchinetto che ho, tutti con gli altoparlanti esterni, ne ho 4, 5, ne ho 1, 2, 3, 4, loro ce ne sono con gli altoparlanti collegati, diverso radio. Robè, io devo necessariamente staccare, se no qua devo riscaldare la roba un'altra volta, dai. Ci sentiamo o dopo o quando capita, ok? Ciao, buona serata. E io ciao Marco, buon proseguo, buon tutto. Vai Natalia, se ci sei ancora. Ciao Marco, buon pranzo. Grazie. Tu pranzi, io ceno. Natalia, questa radio come la senti? Ciao Natalia, anche a te, ciao. Vai Robè, dai lì controllo Natalia. Un po' cupa la sera. Ti ho sentito male, cosa hai toccato Natalia? Niente, non ho toccato nulla. Ho solo spento la TV e buh. Cupa la senti? E di livello microfonico com'è? Sì, alto. Ancora troppo alto? Sì, cazzo. Dovresti abbassare appena appena. Cattamella, stanno arrivando. è questi propagazioni? Tu sei 9 quasi 20 e stanno arrivando segnaloni così, 9:15 abbondanti. Vabbè, io sono con 2 watt e mezzo, mi pensavo ne avesse 4, gli ho attaccato il rosmetro wattmetro e mi segna 2 watt e mezzo. Tu mi hai detto che mi senti cupo, Natale, così è? Sì, un po' cupa come radio, e non è la solita radio chiara che hai tu. Però hai cambiato microfono, blu. Ho cambiato microfono, guarda adesso, ho sollevato un pochettino, si è cambiato qualcosa. No, è tutta blu, blu, blu. Forse devi abbassare un po' il macchinino. Ma non è che sia troppo alto la radio, adesso sto abbassando un po', così meglio va. Abbassa. Ancora? Sì, cazzo, se abbasso sono davvero. Cosa stai usando? 908 ad Unisi con 5 bande di equalizzazione, solo per questo da regolare mi devo ascoltare io, perché se non mi danno dei controlli precisi con una topolata esterno buono, non so. Per quello, te l'ho detto, tu hai cambiato microfono, non è la tua solita radio, capito? La tua è chiara, bella, invece questa qui è cupa. Bisognerebbe regolarlo quel microfono, capito? Ehi, già lo so, guarda adesso mi sto buttando giù tutti quanti i bassi, meglio va o peggio? Meglio va. Così è meglio, guarda adesso un po' sto sollevando un'altra frequenza, è cambiato qualcosa? È troppo volume c'è, mi. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. Fa un passaggio più lungo. Allora, attenzione, canale 10, 27, 075, prova di modulazione. Così potrebbe andare meglio. Ho sentito un innesco. Vabbè. Mi ha squillato il telefono, Natale. Eccomi, sono rientrato. Così va meglio la radio. Ma guardate che non si è distorta, poi l'equalizzazione me la faccio con calma, solo che, come stavo dicendo a Marco, metto una radio vicina con le cuffie e tutto, però c'è sempre un ronzio, tipo, perché c'è troppa radiofrequenza, anche se metti attenuatore e tutto, abbasso la potenza al minimo, purtroppo non fa. Lo so. Così comunque va meglio, sembra quasi il 60. Dai. Qua posso lavorare come voglio, mi ho 12 dB in più e 12 in meno, posso fare quello che voglio. Poi c'ho compressore, eccetera, eccetera. Sì, infatti, lo conosco. Solo che sono diversi come microfono. Oh, vabbè, la frasera ero a Bancani in campagna, no? E avevo quel ricevitorino solito e con l'antenino suo originale, siccome lì è proprio un fosso in quel punto lì, arrivavi solo tu. Poi siccome stavamo facendo scoperchiare una veranda, non so, dovevamo scoperchiare una veranda per smontarla, ho appoggiato lo stile a una scala in alluminio, magicamente sono comparsi gli altri segnali e quindi arrivavi tu, Giulio, quasi tutti quelli del canale. E ho visto che avete fatto un questo piacevole, stavate parlando di musica, tranquilli, nessun disturbo, insomma una bella serata, in campagna si stava non bene di più. E io vedo Bancali in tesoro aereo tu. Ehi, diciamo Bancali, dai, non diamo troppi dettagli. Più vicino a Sassari, tendente più a Sassari. Con l'antenino riuscite a ricevermi, un antenino non in macchina, non parli di baracchino in macchina, uno scanner o un baracchino? No, no, ricevitore X H data, come il tuo però con l'SSB. E mi stavo ascoltando la 27 mentre lavoravamo sulla veranda. Perché lì è molto infossato, è proprio una conca, E poi te l'ho detto, ho fatto toccare l'antenino con l'antenna di alluminio, ho fatto contatto e faceva d'antenna e copiavo quasi tutti. No, dicevo non ben bene, anche quello che ho io, te l'ho detto, quello piccolino, il mio non ha la banda laterale ma sono quasi uguali come apparati, c'hanno una ricezione da paura, perché c'hanno il DSP, poi c'è l'indicazione di bimetro di segnale, è bello interessante. Io infatti molte volte quando voglio vedere i segnali, non dico di qua, però in FM, in coso che ripetitore sta andando, utilizzo quello. Naturalmente quell'antenna l'antennino sarà fatto grosso modo per l'FM, per la radio FM o per la 27, è veramente troppo corto. È proprio una frazione d'onda. Se uno mettesse un antennino adatto, o anche quel cavo, quel dipolino che ti danno, quel long wire che ti danno, che poi è corto, mi pare sia 3 metri il suo originale, è corto, No, con l'antennina non l'ho mai provata, sinceramente non l'ho neanche sciolta, però l'ho provata con l'antenna, io ho comprato l'adattatore da micro, come si chiama, l'antenna, come si chiama, per la cuffia, come si chiama, il mini jack, la mini jack APL, ti posso dire, mi diceva che era una bomba con la radio. Sì, jack 3.5 a SO 239, via. Poi non so se tu l'avessi sentito con l'antenna risonante per i 40 metri. Antenna veicolare per i 40 metri, risonante, magnetica, diciamo, ogni a ricezione, minchia, una cosa incredibile. Ma forse l'avevi sentito, forse qualcuno te l'aveva girato. No, non mi ricordo, l'aveva tirato lì. Speriamo di buscarlo qualche ricevitore, così piccoli non mi biasimi. Già me lo busco uno, mi devo buscare anche le antenne per le varie frequenze. No, diciamo, sono appassionato, ma adesso li troviamo anche a poco prezzo i ricevitori, soprattutto se sono di vecchia generazione, li vendono a buon prezzo, dai. Oppure vai con questi digitali, DMR, con quelli vai ancora meglio, però li devi interfacciare al computer, a me piace sempre il manopolone, io ce l'ho uno di Coloma Lakite, quelli che ci hanno analizzato il rispetto, tutto quello è scomodissimo, perché è tutto piccolino, touchscreen, per entrare nei menu, sotto menu, non ha fatto, a me piace toccare il tasto, entrare, scrivi VFO, scan, AM, FM, diciamo antico. E anche a me questi SDR non mi sono mai piaciuti, anche col computer non riuscivo mai a sintonizzarmi bene, eccetto qualche rara volta che sono riuscito a sintonizzarmi, infatti non è uso. Mi interesserebbe sapere quel programma per il radar che stavate usando l'altro giorno, ma la radio ci va attaccata oppure no? No, è un'applicazione, si chiama Fly Radar 24, te lo scarichi, c'è tutti gli aerei del mondo. Si chiama Fly... Fligit Radar 24, scrivi applicazione, scarica e te lo fa direttamente. E vedi tutti gli aerei in tempo reale, fino a quando non atterra, la velocità, altezza, tipo di aereo, tutta la roba che sta facendo, addirittura anche 3D, come se stai guidando la cabina di pilotaggio, ti fa vedere proprio quando sta passando sopra il coso, l'elicottero, tutto prendi. Adesso vediamo un po' di buscarlo. Adesso c'ho il computer spento, se no me l'avrei scaricato adesso. Io ce l'ho sul cellulare, il computer veramente l'ho messo, me l'ha fatto inutile. Poi c'ho Marine Radar, dove ci sono tutte le navi, almeno tutte le navi di una certa misura, le barchette non ci sono, tutti quelli che hanno il coso, come si chiama? Non il posizionatore, come si chiama? Vabbè, che avete capito, quello che indica la posizione della nave. GPS. Vabbè, non è proprio GPS, è un, come si chiama, affannapoli, tipo la scatola nera che c'è collegata. GPS è quello che riceve, si chiama il, non mi viene la parola, vabbè, ma avete capito, è tipo una scatola nera che ce l'ha dentro la nave, ti dà, però navi di una certa misura, normalmente per legge vanno a vela tutte quelle che hanno oltre 21 metri, però magari trovi anche barche a vela di 15, 16, 18 metri, ce l'hanno già, non mi viene o no. Quello che hanno anche gli aerei. Uguale, adesso che c'hanno le aerei. È un coso che invia la propria posizione alla rete satellitare, ma quello degli aerei è spettacolare, bellissimo. Cioè quando parlo a mia figlia io, dovevo arrivare a un certo orario, ho guardato l'orario dell'aereo in volo, alla partenza, ho detto, allora mica è partita in anticipo, allora mi sono messo in cammino, poi quando stavo arrivando ho acceso di nuovo e mi vedeva proprio il percorso che ha fatto, atterrata, ti dà la quota, velocità, l'aereo, la fotografia dell'aereo, eccetera eccetera. Sì, da quando arriva nella pista che sta rullando, tu la vedi anche camminando a 50 km orari quando l'aereo sta rullando, piano piano poi aumenta la velocità, tu e parte, o viceversa quando sta atterrando che da 400 km orari arriva a 70, 80, poi si muove nella pista. artista ci ha segnato, perché è fatto bene bene. Poi ci sono gli elicotteri, qualche volta è capitato anche qualche aereo militare, anche se normalmente quelli sono codificati, nel senso non fanno parte di questo, però c'era un'area di addestramento, tempo fa mi c'era anche Gianfranco, ce n'erano due sopra ad Aviano, però normalmente gli aerei militari sono tutti, cioè non li puoi identificare, è fatto apposta. Risponde, stai dicendo. Per caso il sistema AIS Alfa India Sierra l'ho trovato adesso su internet, è la prima voce che mi dà. Ho messo posizione navi e mi compare questo sistema AIS. Sì, il sistema è quello lì, però devi cercare Marine Traffic, se lo scarichi ti dà tutte le posizioni delle navi. Però la cosa più bella sono gli aerei, perché gli aerei vedi, cazzo, ce ne sono migliaia nel mondo, quando vedi, inizi a ingrandire vedi tutta la cosa terrestre coperta di aerei, poi piano piano ingrandisci la zona dove sei tu, io faccio la Sardegna, quando sento un aereo per dire sopra la testa dico, dove sta venendo? Questo sta venendo a Barcellona, oppure questo sta andando, perché passano anche gli aerei intercontinentali sopra di noi, non è che passano solo le linee aeree normali, per dire parte un aereo da New York e passa sopra la Sardegna e sta andando a Dubai per dire, o sta andando a Istanbul, passano aerei di tutte le qualità e c'è sempre traffico, la cosa spaventosa quanti aerei ci sono, poi le rotte, molte volte ti capita che devi aspettare per atterrare uno perché sono in contemporanea, stanno arrivando là, quello lì lo vedi girare intorno aspettando a 360 gradi, aspettando che atterri l'altro e poi parte lui, è bello benissimo perché c'è una tecnologia, questi rilevatori, trasponder comunque la parola, come veniva il nome. Sì, è come un radiofaro, dai, che segnala la posizione di ogni singola unità, è un sistema attivo, dai, non passivo, che ricevi solo come GPS. Bene, riprendi Natalino, query per me. Allora, flight radar 24. Ecco qua. Installa, è bellissimo la cosa lì, e poi c'è la mappa mondiale, la carta mondiale, e te la ingrandisci, e ti vedi la Sardegna, vai sulla Sardegna e ti vedi che aerei ci sono in questo momento, e c'è un'idea cosa ci abbiamo sulla testa. Adesso me lo scarico. Ti dico cosa c'è in diretta. Buonasera a tutti. Ciao Gianfra, buonasera. Adesso sulla testa ci abbiamo l'altezza, diciamo, Usilo, dai. Sopra Usilo c'è l'aereo che sta andando a Barcellona, Istanbul, parli e Tito da 43 minuti, arriva tra 2 ore e 02 minuti. 490 km nodi di velocità, 34.000 piedi di altezza, un aereo della compagnia, ti dico pure che compagnia è, Airbus 321, compagnia Turkish Airlines. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, ciao a tutti, ciao Natalino, ciao Marco, ciao Roberto, state parlando di cose interessanti. Sì, no, a me piacciono questi argomenti, a te penso ti piaccia anche più di me. Dimmi un po' al volo, se stai ascoltando con l'autoparlante esterno, ho cambiato microfono, come mi senti Gianfra? No, ti sento bene, però un po' differente rispetto alle altre volte. Non so se è meglio o in peggio, perché non è che me la ricordi molto. Però forse prima era più, come dire, è difficile da trovare il termine, dai, però diciamo più stereofonica, dai, per usare una cosa più. No, il livello microfonico va bene rispetto al solito o è troppo alto? No, il livello microfonico va bene di livello, perfetto, se dire. Non è né alto né basso, è il giusto livello, anche come ampiezza mi sembra. Poi c'è una preparazione che è qualche cosa da micidiale, però con la brutta. Non lo so, avanti Natalino per i saluti a Gianfra. Ciao Gianfra, buonasera. Sento un sacco di rumori, ciao Natalino. Quasi ben ascoltato perché c'è preparazione di quella forse. Allora, ci sono aerei, ci sono navi, ci sono sottomarini, ci sono dirigibili. Sono rientrato, ho cambiato radio, cos'è cambiato Gianfra? Forse un pizzicotto più forte perché hai parlato un po' più forte, ma più o meno siamo lì, ecco. Radio, volevo dire microfono, radio sempre da te. No, sottomarini non credo che venga bene individuali, sarà molto difficile, perché non esistono, almeno non credo che esistano sottomarini, a meno che non siano quelli per esplorazioni fondali, e che non siano militari sarà molto difficile rilevarli, mi immagino. Però già ci sono anche i droni. Quelli ci sono quando vogliono loro. La prossima ce n'è uno. poi è arrivato a metà strada, ha spento, ma domandava se capito, dato che è pubblico si può dire anche da dove partono da noi, da Sionella, praticamente, ci sono quelli italiani e quelli americani, questo probabilmente era, ma anzi quasi certamente era americano. Sicuramente gli americani hanno sparpagliato centinaia, per non dire migliaia, nel mondo, nei punti stretti. Il Mediterraneo è la zona più critica, sta diventando l'Oceano Indiano, però il Mediterraneo, per quello che c'è come giro di soldi, è il punto più controllato del mondo. Di nuovo a te, Natalia. Capo, non riesco a installarlo questo cavolo di situazione. Come non riesci? Hai cambiato radio o hai sollevato, Natalia? No, ho sollevato perché Gianfranco ha detto che era troppo basso. No, Natalia, ho detto che c'è molto rumore di preparazione, a te ti sentivo. No, c'era bisogno di sollevare. Capo, allora abbassiamo un po'. A me la cari sei 9 più 15 abbondante, quando parli superi 9,20. Meno male questo, perché stavo uscendo con 2,5 poco fa. No, ti ascolto sempre bene. Il problema è se c'è qualche segnale sotto il 9 è difficile, perché c'è la propagazione altissima qua, da questa parte sta prendendo tutta la mondezza. Di nuovo a te Gianfranco. Mia, sento questo, sento ola, mamma mia. I droni ci sono. Si riconoscono per un simbolo particolare, infatti anche a me è meravigliato, poi facciamo la ricerca e c'è fuori, anche se preferisco quello diretto, quindi quello ricevuto dall'antenna, se vuoi te lo regalano pure il sistema, però ti devi iscrivere a Flegradar Simulator 24 e ti spediscono un ricevitore anche. Credo che lo faccia anche Marine Traffic questa cosa. E niente, Natali, guarda che c'è sul computer, non c'è bisogno di installare niente. Cosa c'è sul computer? Non stai cercando Radar Flag 24, c'è già la pagina web con tutti i voli del mondo. Ah, non c'è bisogno di installare nulla. Vediamo allora. Solo sul telefonino, ma sul telefonino non è proprio, non è una cosa bella. Vai su Google e cerchi Flag Radar 24 e trova immediatamente. Ok. Ciao Gianfranco. Sì, Natali, è quello, è quello. Mi ricordo, Gianfranco, che in periodo brutto di Covid, mi pare me l'avevi suggerito tu, c'erano pochissimi aerei in volo, il cielo quasi tutto sgombro. Sì, la Sardegna era una cosa che non si credeva, a parte gli aerei militari. Ci sono tanti aerei militari che hanno come rotta praticamente sopra casa mia. Sono tutti qua. E l'altra volta è passato un coso, non mi viene il nome, quello con rosso americano a trasporto, seguito da un C-130 che stavano andando sempre verso quelle parti strane, sono partiti da rotta praticamente, che è una base, grossa base della NATO in Spagna. Ne avevo tanti, quello grosso l'ho visto anche in diretta, perché passando qua sopra faceva il rombo, è tipo uno dei più grandi aerei da trasporto militare che esistono, ma era una cosa paurosa la fiera faceva. Riprendi Roberto. Sono quelli enormi, giganteschi, le cose del Douglas, adesso mi ricordo come si chiama quel modello. Allora, Santiago 9 arriva la propagazione. Sì, sta andando aumentando. Sì, così. Sì, Marco, c'è anche quello Marine Traffic comunque che è interessante. Puoi vedere un po' la situazione. A volte ci sono anche gli elicotteri. Quindi puoi trovare anche qualche elicottero, perché sono quelli della capitania del porto. Ok, qualche volta trovi anche le piattaforme delle boe in corso su Mare Traffic, e trovi qualche boa pure di quelle di rilevamento. Sì. Oh, guarda, uno di quelli, però di quelli seri, perché quelli di Mare Traffic sono fatti anche dai volontari che collegano questi apparati in rete, ma uno molto serio fatto dalla Leonardo si trova esattamente a Monteforte, che sarebbe quel grosso pallone che tra l'altro un paio di mesi fa, l'anno scorso, è morto quel tecnico, anzi quella tecnica, cadendo da quella struttura. Io sono andato vicino e c'è un rumore, sente l'affare girare, no? Sento ininterrottamente, e quello è un sistema ADS-B aereo. Sì, quello è un radar, c'è la copertura protettiva, non ci sono mai salito, ci vorrei andare, però mi hanno detto è molto molto complicato arrivarci su, non è facile, ci vuole un fuori strada con la macchina, un pezzettino riesce ad arrivare, lì era accaduta con la tecnica tedesca, no, forse non è anche tedesca, ma olandese, da 30 metri da una ringhiera mi è caduta. Sì, ci deve essere una manutenzione in quel posto, guarda, ma è ancora micidiale. C'è un'antenna anche di teletrasmissione, poi quella direzione va verso l'aeroporto, ovviamente manda tutte le immagini di lì. È sì un radar, però è sempre quello, no, ADS-B, quindi è per vedere le stesse cose che vediamo noi in pratica, solo in maniera molto ma molto più dettagliata, con molti più parametri, eccetera eccetera. Sì, è fondamentale quel punto di arrivo, un coso di, come si chiama, di punto di levamento, di coso, di posizionamento. Sì, un bellissimo panorama, è un peccato quella struttura, che tutto intorno ci sono palazzine, tutte in sfacello, con i piccioni, guarda, proprio una cosa abbandonata. E già lo chiedevo poi che le rinchiede da ruginose. L'unica cosa che funziona è questo accesso su un traliccio larghissimo, proprio di quelli grossi che gira. E niente, un altro di quelli l'ho visto, cioè a Cagliari, esattamente a Calamosca, Monte Sant'Elia, stava la stradina e si sale su, e lì c'è uno di quelli. C'è pure una bella stazione, però non ti puoi avvicinare solo al muro di cinta, ti puoi avvicinare su all'Imbara, appunto sopra la NATO, non so se c'è, ma salito in cima a quasi 1300 metri, c'è una stazione della NATO di lì, allucinante. C'è un sistema di sorveglianza, mai vista una cosa del genere, con tutti i sensori di movimento, di coso, di qualunque cosa, di contatto, c'ha tutte le cose possibili, ma la cosa bella è che poi questa recinzione passa in mezzo a queste cose di granito, cioè queste rocce, cose, hanno fatto un lavoro allucinante, con tutti i sensori, ci sono una marea di sensori, telecamere, peggio di quello non c'è nessuno, forse a Fort Knox negli Stati Uniti. C'era al condizionale, con l'americano non c'è più, l'ho passato, era il sistema di collegamento dalla NATO praticamente. E era fatta a microonde praticamente, puntava in varie parti d'Italia e poi si diffondeva. Quello lì andava, credo che fosse in contatto con Roma, e da lì rimbalzava fino al Veneto. Però adesso hanno tutto smantellato, tutto distrutto. Su YouTube c'è anche una visita fatta dai radioamatori, che anche perché come coso storico loro lo volevano fare, poi tutto uno stato d'abbandono che forse è micidiale. Poi c'è l'altro che è dell'aeronautica, ma quello è solo punti ripetitori, niente di particolare, capito? Quello là all'epoca era grosso, c'erano anche dei pannelli riflettenti, proprio enormi, giganteschi, tutto in sfaccello, adesso è tutto rovinoso. Sì, no, quando è andato. Io c'ero andato tanti anni fa, quando era ancora attivo, neanche le fotografie, se ti vedevano c'erano americani, guai, ti sparavano se ti metteva a fotografare. Poi sono andato l'anno scorso c'era il Covid. E poi in cima c'è quello della NATO, ed è attivo, perché conosco gente che ci lavora, ed è perfettamente attivo. Quello, io mi riferivo a quello su, più in alto della vecchia base americana, troppo scatter, quella era una cosa di trasmissione informazioni da Monte Amiata, arrivava e poi arrivava in Germania, quello lì, la base principale americana. No, probabilmente stanno informato male, aeronautica militare, roba italiana. Non ho capito, scusa? Ti hanno informato male, è aeronautica militare italiana. Sono i collegamenti di ponte, praticamente, quelli che servono la Sardegna e il centro di controllo. No, io stavo parlando quello americano, quello di giù stavo parlando, quello di su non lo so di che cosa sia, io ho detto NATO, però poteva essere anche l'aeronautica, vabbè, l'aeronautica fa sempre parte della NATO, cioè, però un sistema molto, c'è anche la cosa per l'elicottero, la piattaforma per atterrare lì, sei mai salito tu lì su? Guarda, c'ero quando era, gli ultimi mesi dell'anno scorso, quindi ero in tutta quella zona, dalla cima, proprio dove ci sono i cancelli, da lì col portatile, sai come arrivo a casa, fondo scala praticamente, col portatile, in UHF e tra l'altro. Sì, no, un bel po', poi c'è un bel panorama, lì domini tutto. Avanti Marco, a te, poi fa girare Natalino. Marco, non c'è Natalino, a te. Io non riesco a usarlo quest'anno. Cosa non riesco a usare, Natalino? Questo programma qua che c'è su Google. Clicca ci sopra, ti appare il mondo, tu diminuisci l'ingrandimento, anziché prendere tutta la mappa della Terra, ingrandisci, nel senso riduci la scala e vedi che piano piano ti appaiono le regioni che ti interessano, poi vedi questi aerei giallini che si muovono, che sono fissi quando è troppo corso, quando ingrandisci tanto li vedi proprio muoversi, ci clicchi sopra con l'aereo e ti dice che aereo è. Natale, ma sei andato sul sito? Eia, Flight 24 Live Flight Tracker, questo qui è Real Time Flight Tracker Map. Beh, non ricevi niente. Io sto guardando adesso, guarda, sta passando un aereo su casa mia, che è esattamente dalle più o meno, che è della, quello che va a Istanbul, della Turchia, turco, in aeree turche. E si vede, capito? Vedo tutto il mondo, però vedi, ci sono tutti questi aerei azzurri e gialli, però non riesco a farlo più piccolo, cioè ci schiaccio sopra nulla. No, allora al tempo tu premi più per farlo più grande, non più piccolo. Se è più grande va, ti porta giù di quota, diciamo così, e vedi esattamente la cartina. Non so dire farlo, magari ti stanno andando anche un altro paese, però ti porti sull'Europa e a destra in alto vedi più e meno, tu devi cliccare su più. E togliere anche eventualmente se c'è quella pubblicità, c'è questo close, chiudi, significa, se c'è la pubblicità ancora, tipo te, fate immagine. C'è anche un aereo privato che sta arrivando da Southampton in fase di atterraggio, a Urbia sta atterrando, e qui c'è quello della Turkish Airlines, ce l'abbiamo sopra la testa, dovrebbe essere più o meno all'altezza di, penso, di Uskiri, così più o meno. Sì, adesso sì, più o meno di lì, in cui ci cresci. Quello interessante è quello della Sicilia, dove ci sono le varie basi, però adesso è tutto tranquillo, perlomeno ce l'avranno sempre, come al solito, però qualche volta che l'accendono, verso la punta lì di Crotone ci sono sempre due aerei militari d'addestramento italiani, quelli macchi, aerei per addestramento da combattimento. sta cosa che fa ridere, Palma di Maiorca, un'isoletta che non vale niente, è piena di aerei sopra, c'è un traffico di aerei da Palma di Maiorca, il turismo vuol dire la fonte del reddito, ma ci saranno cacchio in contemporanea 10 aerei sopra Palma di Maiorca. Turco questo che sta passando sopra la Sardegna. Oh, ce l'hai fatta finalmente. Sì signore. Mai dire mai. E molti sono abbinati della quota, perché se come la Sardegna arrivo via, anche quelli che fanno il Medio Oriente passano tutti sulla Sardegna, la maggior parte. Quindi sono le aerovie quelle, no? Sono delle strade già programmate perché devono passare per forza lì. E beh, Claudio. Com'è, sta a posto? Compagnia mia, di Gianfranco, un attalino c'è la vacca che forse sta mangiando, sta pranzando. Avanti, Claudio. Un bel preparazione c'ho io, parecchia, parecchia. Tu sei quello che riesci a passare, Gianfranco, è sempre un vatte, cazzo, pare che consumi a corrente, aumenta la potenza. No, non è che consumo corrente, è che mi devo spostare, devo accendere l'altro apparecchio, capito? Questo più di un quarto e mezzo non dà, capito? Sono già al massimo, perché in AM non si usa con questo apparato. Sì, capito, ti ho, però la propagazione è molto forte, quindi ti copre. Natalino è proprio al limite. Natali! Oia! Al limite sono! No, adesso no, la matta. Posso aumentarmi? No, adesso già passi, sì, ho per 9, prima di me. Vabbè, poco qua sta facendo bassino, capito? Aspetta, c'era qualcuno che stava parlando sopra la tarina, avanti che parlava. Comunque Marco dice che ieri, o avanti ieri, ha ascoltato solo a me, mettetevi a 3-3, quando abbiamo fatto il discorso l'altro giorno con Giulio, dice era con quella radiolina piccolina, con la portatilina, dice l'unico che ha ascoltato a manca l'ero io. Poi l'ha attaccata a una scala in ferro, dice ascoltava anche a voi, già fa. Ciao Claudia, ci sentiamo. Ma se qualcuno vuole andare, comunque facciamo riprendere Gianfranco. Avanti Gianfranco. Sì, io ho cambiato radio, sono passato sull'omologato. Questo esce con 4 watt, quindi sicuramente ho migliorato. Anche se qua non si capisce un tubo perché sono tutti segnali 9, ma c'è un baracchinetto piccolo. No, adesso va bene, già ci sono più del 30. Saluto però, non rimango in radio, sono entrato a salutarvi, ciao. Sì, K. E mi stavo guardando, ce ne sono un paio sulla Corsica pure. Mettiti nell'oceano e vedi cosa ci sono di aerei, cacchio, oppure una zona in Giappone o zone così, Los Angeles, quelle zone lì ti spaventi cosa ci sono in aerei in questo momento. Già lo so, già vedo il tutto qua. E c'era qualcuno che stava chiamando, avanti che vuole entrare. Boh, questo forse manda laterale, niente. Vai già fra. Molti sono FM. Cacchio da M è solo uno da cui amo, per carità. La nostra FM è molto più pulita, più stabile come segnale, come modulazione. Ma diciamo, ci arrangiamo anche con questa, non ci ha preoccupati. Tu sei salito parecchio di segnale, sei quasi 9 più 30, Gianfranco. Lo so, ma non apparecchio. Guarda, mi sta assordando, se metto lo specchio dovevo mettere a 9 addirittura. Tutto disturbi, tutto cose, un baracchinetto da 80 euro omologato, di quelli proprio piccolini, tascabili, oserei dire, però invece è potente, esattamente adesso c'è 4 watt, quindi il microfono fa puntini, puntini, puntini, la voce sarà pessima, immagino. perché proprio un microfono ci hanno messo da 13, quelli scadenti al massimo, è proprio economico. D'altronde da 80 euro cosa vuoi? No, io ti ascolto perfettamente, è una voce normale, non è molto amplificata, ma è pulita e chiara. Avanti Natalia. Infatti, già va bene Gianfra. E io che il mio pensavo che avesse 4 watt, invece ne ha 2,5. Allora se è andata bene, il mio ne ha 1,5 al massimo, poi se lo metti in FM allora va 10 watt, però in AM è proprio è così, non sta neanche a aumentare tra l'altro, perché non è una piastra praticamente, come apparecchio tipo cellulare, no? Non esistono prime. Faccia lo switch, ce l'ha almeno. No, su quel campo è professionale, no? Non è, ma siccome, ripeto, la M non è utilizzata, gli unici utilizzatori sono gli aerei praticamente, per motivi particolari, e quindi quando la mettono, ce la mettono oramai così sugli apparati estivi, molti addirittura di quella razza neanche ne hanno, hanno solo l'FM per mandare a terra. Da questo è arrivato 9 più 10, questo lo segniamo. 15 adesso. Allora è brutto, la propaganda così è una porcheria perché è troppo ampia, si sovrappongono uno con l'altro. L'altro giorno che c'era la Sicilia, era abbastanza ristretta, a Catania, Siracusa, con quel passaggio lì, arrivavano belli segnali, puliti, ed era piacevole anche parlare, ma non oggi, oggi è una cagata mondiale. Sì, quando è così è giusto, batti, non capisce niente. Vediamo se come ascolto Natalino. Natali, vieni avanti. Guarda a vedere come mi ascolti, dai. Già lo passi bene. Solo qua, ce l'avranno lo squelcio questi qua. Mi auguro di sì, perché c'è AVG che dovrebbe essere quello automatico. Ma che malattino è questo che sta dicendo 80 euro? Guarda, è identico al, come si chiama? Non so se sia al Midland o all'Intec, però qua la marca non la vedo, fatta la stessa. Cioè, la marca è sopra, però io essendo in un pianale non si può vedere. Tipo CRT, quello il più piccolo, dai, per la CRT. Dove diavolo ce l'ho questo? C'è una classe di superstar, CRT fa superstar, quelli lì stai dicendo. Ma non è un superstar, questo è 3 cm di frontalino. Lo metti in tasca, dai. No, ho capito, e anche io ne ho uno piccolino della Midland, più piccolo ancora, addirittura dell'Alan 48, si chiama Alan 48 Plus. C'è però quell'indicatore anziché ad ago, lo Smith ce l'ha sotto con le barrette fluorescenti. Ma l'ascolto con questo va bene, mi guardo ma non c'è spazio, ma adesso senti che assorba e basta, capito? Perché quando molli senti di tutto di più proprio senza ritegno, quindi siccome non ha filtri, però là volendo addirittura la modulazione la puoi anche far sparire, quindi qui c'è un sistema di noise micidiale, abbassa tutti i rumori che non sono modulazione. E sono quelli nuovi di nuova generazione con filtri digitali, puliscono soppressore di rumore, di QRM eccetera eccetera. Di nuovo a te compagno Natalino. Sì, adesso sono compagno pure. Oh yeah. Andrà bene Mela, esci a vedere. Così meglio va più vicino al microfono. Ti ascolto sempre bene Natalia. Questo è il microfono di Tina. Di chi? Di Tina. Gianfranco già lo conosce. Di Tina? Cosa vuol dire Tina? Turner. Ah, stavo pensando a Tino. Ho detto, ma cazzo, sei già Mattino, non Tino. Oi oi. Che allora questo qua stavo prendendo l'altro giorno due microfoni Tanner messi bene anche con la scatola da palmo e un Tanner più 3 plus 300 euro ma cosa da pazzi, stanno inventando questi microfoni? E prezzi esorbitanti, un Saturneco non so quanto ruria, mamma mia. No, ormai stai diventando, per dire, ma hai detto che radio, cioè un Saturneco lo paghi a livello di un 140, anche di più secondo com'è. Non mi prendo meglio un 140, almeno c'ho tutto. A me proprio le HF mi mancano. Ho questi alla 48 modificati, anche a 600 euro ne ho visto. Ma ci ho fatto un sacco di modifiche, sì, ma vai sempre un maracchino, non hai nulla. Cioè 600 euro ti pigli già una radio discreta. E infatti, già non mi piace il 140 perché è poco più di un baracchino, ma infatti non so che pesci prendere. Hai detto bene, poco più di un barattino, cioè, poi è scomodissimo, però diciamo già va bene anche lui, per l'uso che è destinato va bene. A me non mi piacevano quei cacchio di trider piccolini, slider troppo sensibili, il volume del microfono, la potenza, scomodissimo, non ho mai capito perché non hanno messo quelli potenziamenti rotativi come 440 e come tutti gli altri apparati. Ok, avanti lo fate già fra. Sì, io sto accendendo l'altro apparecchio perché non mi posso più, accendo quell'altro grande, lo stesso digitale, però almeno... E che è? Un attimino che accendo, che sintonizzo quello grande. Io ho cambiato radio, sto uscendo con questa. Fatali. Yes, sir. Sto uscendo, dico, con questa. Questa è un'altra radio con lo stesso microfono. Già stai uscendo. Se no non ti avrei risposto. Eia, ok, però c'è questo cacchio di QRM troppo alto. Oggi è altissimo. E che vuoi, va? Troppo. Adesso ho attenuato tutto, ho tornato di 20 dB, vediamo un po' se scompare. Prova a parlare se ti ascolto, una per i 30 dB ho tolto. Prova, vedi, 1, 2, 3, mi ascolti? Sì, ti ascolto bene, non cambia niente. No, è andato tutta questa mondetta, sennò cavolo, sono proprio sotto. Vabbè. Dimmi, ma. Io qua non sono stabile, sto andando avvenendo, però ho fatto un giro di canali così per curiosità. Allora, sui 40 canali c'è tutta Europa in FM, persino gli spagnoli, noi credo che siamo gli unici in AM. Chi è questo che sta chiamando? Aspetta, sto sollevando l'attenuatore, l'ho tolto. Avanti chi chiama la Sardegna? Avanti il compagno di Scucci d'Italia che chiama. No, ah, questo è un FM, è la sua mobilità. Loro stanno in AM o in SB? Ma l'altro giorno ho ascoltato gli spagnoli, anzi i portoghesi, LSB, non USB, LSB, tutti quanti erano LSB, strano. Se lo fanno per avere la banda laterale più libera e stanno intorno al 34-35 come canale, i più usati sono quei due in LSB, hai ragione, è una cosa che ho notato da tanto. Rientrato? Sì, avanti Giaffa. Sì, ok, adesso sono con quello consiglio. Con quello, scusa, non ho capito, mi sono distratto un attimo. Forse deve scaldare un po'. È differenza di radio, avete notato adesso, è un'altra radio questa. Questa sembra più forte. E qualitativamente? È meglio dell'altra. Addirittura, meglio così. Ok, di nuovo Gianfranco, vediamo cosa c'è da dire, avanti a te. No, stai attento quando tocco qualcosa perché c'è la manopola troppo sensibile questa affare. Però non so come si regoli, doveva avere la vittima. Non ne comprendo nulla, c'è il blocco, però non penso il look. Vabbè, poco fa c'era un tedesco, arrivava chiarissimo. Anche una ghiera possono avere, mi per farla un po' più dura la manopola. No, adesso l'ho bloccato prima. E niente, c'è tutta la banda piena da su a giù, ma c'è, gli unici un po' tranquilli sono quelli di canali bassi. Sì, ma è brutto, la propagazione così non mi piace, che è tutta confusionaria, non riesce a fare collegamenti né niente. Fate così, sono troppi, è troppo aperta, sono da tutta Europa. Io aspetto ancora qualche minuto, poi vado a mangiare e mi guardo queste partite famose, che oggi si decide chi va in Coppa dei Campioni. Stasera ho preparato già i fazzoletti, stasera serata pianto e mi guardo a Cicco. Cicco, e dove è Cicco? A Cicco. Ti ricordi quel film con Richard Gere di quel cane fedele che quando muore il padrone lo aspetta per tutta la vita alla stazione? È tratta una storia vera. Sì, no, pensavo stessi parlando. Il pianto perché Mario sei juventino, perché la Juve, no, già lo conosco quel film, un film un po' triste, poverello, quell'animale, cosa no. Quello è tipo il cane, non so se ti ricordi, quello Antartica, quello dei cani che li hanno abbandonati nell'inverno polare, la stessa cosa. Sì, qualcosa ricordo, l'ho visto anni fa però. E quello fa, ho già preparato i fazzoletti, No, a me i film tristi non mi piacciono, a me piacciono i film, le commedie, i film di azione e buffo. I film quelli tristi, la stabilità, anche se qualcuno l'ho visto, no perché non li apprezzo, però preferisco non guardarli, mi piace anche su un film, eccetera, eccetera, ma ce ne sono certi, mamma mia, ogni cosa allucinante. Ricordo quando ero piccolino, quel film Incompreso, non so se l'avete visto, il peggiore di tutti, il più triste di tutti era Il Venditore dei Palloncini. Ma un film così triste io non ne ho mai visto, poverino, che poi muore di tumore questo bambino. Oddio, il titolo mi suona familiare, ma non il film, forse sono passati troppi anni. E questa è come la storia della fiaba, quando ero piccolo c'era sul disco 45 giri, La Piccola Fiammiferaia, ogni cosa triste, strappalacrime. No, ma Sabili, poi ce n'era un altro, lo stesso troppo, anche da piccolino Marcellino Panevino, non so se lo ricordate, bianco e nero, poverino col bambino. Venga, o se no il libro cuore, com'era, Sangue Romagnolo, l'impiante che ci faceva fare la maestra, amica, con quei libri. Cambiamo argomento di film tristi, no, a me piacciono le commedie, se sono ben fatte, e poi soprattutto i film d'azione, però non quelli soliti, che cacchio, che ne stanno dando 10.000, un ex della CIA che si è abbandonato a casa, ha voluto mollare il lavoro e poi avviene il ritorno come te prima. Ne hanno fatto 2.000 di quei film, ogni settimana ce ne sono due o tre, sempre dello stesso genere, un ex dei servizi speciali, dei servizi marines, dei navi suisse, cioè, che ritorna a vita privata, gli ammazzano la moglie, gli ammazzano la figlia e si incida. Avanti Gianfra. E più o meno sono sempre le stesse cose, quindi niente di nuovo praticamente. Che ore si sono fatte? Beh signori, io adesso vado a mangiare, dai, ci sentiamo, grazie della chiacchierata, dai, se coincide ci sentiamo domani, buon tutto, buon proseguo, ciao ciao, ciao Gianfranco, ciao Marco, ciao Natalino, eventuali qua amici sul canale 10, io faccio corretti, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao Robè, alle prossime, dai, buon tutto. Ciao Roberto, alle prossime. Ciao Roberto, buona serata, buon tutto, alle prossime. Non c'è niente di nuovo per la televisione, è interessante, è tutta... E oggi non c'è un granché, dai. E quando ci sono queste partite, è sempre così. Meno male, c'è la riserva sempre. Io adesso mi piglio il caffè, stacco e faccio altro, ok? Ciao Natalino, Gianfranco, tutti quelli d'ascolto, eccetera. Ciao Marco, buona colazione. Ho questo pranzo forse. Ci sentiamo. Ok.

io adesso impiglio il caffè, stacco e faccio altro, ok? Ciao Natalino, Gianfranco, tutti quelli d'ascolto, eccetera. Ciao Marco, buona colazione. Ho troppo sul pranzo forse. Ci sentiamo. Ok, anch'io me ne passo in quei lenti, dai. Salutami a tutti, alle prossime. Ok, Natale. Comunque adesso ve lo sai, c'è anche quello delle navi, e se ti interessava delle navi, basta che metti Marine Traffic e lo trovi subito. Anche quello più o meno come tipologia e come quello degli esseri. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Gianfranco, ciao.